Smart Mobility, pillole di ecomobilità intelligente. Buon pomeriggio a tutti e bentornati alle nostre amatissime pillole di ecomobilità con Gringo. E qui sono Irene Papotti di Radio Città Fujiko e ho la fortuna di avere con me Federico Angeli, il proprietario di Gringo. Ciao. Ciao Irene, ciao a tutti. Bentornato. Allora, grazie. Stiamo parlando di tante cose super interessanti, ci sarebbero tantissime domande, però andiamo sulla ciccia. Voglio un esempio pratico. Allora, voglio che tu mi parli del cliente A, B o C che è venuto da te. Dice: Federico, allora, ho un problema, devo fare questo, devo fare quello. Tu gli hai fatto: non ti preoccupare, cliente A, cliente B, cliente C, adesso ci penso io, Superman ti semplifica la vita. Vorrei avere da te il racconto di un'esperienza di qualcuno che è stato cambiato, ha trovato la luce sulla via di Damasco, okay. E come sono cambiate un po' anche le sue, come dire, le sue abitudini quotidiane dopo aver fatto l'incontro con Gringo. Allora, incontro con Gringo che ha illuminato la via, come si suol dire. Allora, ti dico che ti farò tre esempi, non uno, okay, visto che tre è il numero A. Perfetto. Allora, il cliente A, le diamo un nome, si chiama Anna Rita. Ciao Anna Rita. Aveva un'esigenza, cioè lei lavora a Portalame, si è completamente stancata di vivere sulla sua pelle lo stress di via Marco Polo, cioè nel senso lei dalla trasversale di pianura attraversa, no, con la nuova complanare che hanno fatto, arriva in fondo a via Marco Polo, da lì, ti capisco. Da lì deve venire verso l'uscita 5, ecco, quando arriva la rotonda della tangenziale praticamente, non dove c'è il navile, lei lì impazziva. Mamma. Allora Gringo ha illuminato la via. Ale. Abbiamo trovato per lei il tripattino, quindi questo le ha garantito ovviamente maggiore stabilità, al tempo stesso le ha permesso comunque di richiuderlo, perché una volta chiuso è come un normalissimo trolley. E quindi lei oggi cosa fa? Grazie a Gringo ha risolto il suo stress, perché lei parcheggia al centro commerciale Navile e da lì, tramite la ciclabile, col suo tripattino va in ufficio, torna, rimette il tripattino nel baule e va a casa. Il secondo cliente, ti parlo di Giorgio. Ciao Giorgio. È invece un nostro cliente che gestisce, tra virgolette, fa manutenzioni alle macchine da caffè. Per cui i suoi clienti sono quasi tutti i bar e i ristoranti di Bologna. Quando lui si trovava nella necessità di visitare i suoi clienti nella fattomatica T, per lui era un incubo. Poi ha trovato la luce, è venuto in Gringo e praticamente quando ha bisogno, solo per i giorni che ha necessità di fare i suoi giri in centro, viene da noi, ce lo prenota prima ovviamente, quindi tipo 3-4 giorni prima ci chiama e ci dice: guarda, io per quella data, oppure ditemi voi quando l'avete disponibile, io mi adeguo. Prende il nostro scooter elettrico cargo, quindi lui così carica tutti i suoi attrezzi all'interno del nostro scooter cargo, va in giro, fa tutta la sua assistenza e non paga più neanche un euro del parcheggio. Quindi quello che guadagna è tutto. È un uomo felice anche Giorgio. Ultimo, ti parlo di Nicole. Ciao Nicole. Salutiamo anche lei. Lei invece lavora in banca. Il suo problema qual era? Arrivare in via Farini. Quindi il suo problema era fare tutto il vialone di Viale Togliatti. Una via crucis, visto una che via stiamo crucis. Parlando di esatto. cose legate. Una via crucis vera e propria. Per cui, niente, per lei cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato lei ha acquistato, fa parte del team che acquista invece che noleggia, ha acquistato una bellissima e-bike pieghevole. Lei l'abbiamo resa felice, perché poi tra l'altro sulla sua e-bike pieghevole le abbiamo montato anche il seggiolino per suo figlio che si chiama Lorenzo, quindi ciao, lei Lorenzo. Andando a lavorare lo porta a scuola e tornando indietro lo passa anche a prendere, quindi sono felicissimi in due. Quindi tu, fortunato ascoltatore della pillola, so che ti stai domandando come risolvere un problema legato alla tua mobilità quotidiana. Ricordati sempre che in via Bellaria c'è Federico che scalpita per renderti felice, perché noi qui abbiamo la fortuna di avere un guru dell'ecomobilità che ha fatto trovare la felicità a tante persone. Quindi ti aspettiamo e ci proviamo. Diciamo che viviamo l'esigenza individuale un po' come una sfida, quindi ci piace trovare ci la piace. Soluzione. Grazie mille Federico. Ciao a tutti, grazie a voi.